Se chiudo gli occhi non chiedermi perché, ascolto dolcemente una canzone che porta nel mio mondo l'illusione d'essere con te, vicino a te, ma senza te. Era il nostro refrain, era il nostro refrain, scritto con le note del cuore, sognando per te. Era il nostro refrain che portava con sé tutte le promesse d'allora, la gioia d'un sì ancora, le lacrime che velano, che lente scorrono, sono l'estasi di questa musica nata nel cielo. Era il nostro refrain che oggi muore con me.